Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Ieri sera abbiamo sentito l'opinione di Giuseppe Levi, fisico dell'Università di Bologna, che ha testato l'Energy Catalyzer, l'apparato messo a punto da Andrea Rossi a partire dagli studi di Sergio Focardi, professore emerito dell'Alma Mater Studiorum di Bologna, e che sarebbe in grado, questo apparato, di produrre grandi quantitativi di energia sulla base di una reazione nucleare tra idrogeno e nickel. Alcuni fisici, più di uno, hanno testato indipendentemente la macchina e almeno finora hanno confermato sia la produzione di energia che la sua probabile origine nucleare. In attesa di ulteriori conferme, che comunque sono decisamente auspicabili, abbiamo il piacere di avere in linea con noi proprio il professor Sergio Focardi. Buonasera Focardi. Buonasera. Dunque Focardi, i suoi studi si inseriscono nel filone cosiddetto della fusione fredda, però ci sono delle differenze fondamentali rispetto agli esperimenti dell'89 di Fleischmann e Pons, che peraltro, come sappiamo tutti, si rivelarono anche un po' una bufala. Ecco, ci spiega brevemente quali sono le principali differenze? Una delle differenze più importanti consiste nei materiali utilizzati, perché gli esperimenti iniziali, quelli di Fleischmann e Pons, si parlava di palladio come metallo, sì, e di deuterio, che il deuterio è un idrogeno pesante, sì, un isotopo dell'idrogeno. Noi invece operiamo con un metallo diverso, il nickel, e anche con un gas diverso, l'idrogeno. L'idrogeno quello semplice, diciamo, quello più comune. Quello più comune, quello che si trova normalmente nella molecola di acqua. D'accordo. Qual è il fenomeno che lei pensa sia alla base di questa produzione di energia? Avete in mente un modello fisico? Il modello è molto semplice. La prima cosa da dire è che il sistema produce enormi quantità di energie che non si possono assolutamente attribuire a effetti chimici. Basta confrontare il rapporto fra le energie in gioco, che è enorme, un fattore dell'ordine del milione. E l'altra cosa è, se è un effetto nucleare, evidentemente, dato che i componenti sono due, il nickel e l'idrogeno, deve essere una interazione fra il nucleo del nickel e il nucleo dell'idrogeno. Non ci sono altri elementi in giro che possano dare effetti nucleari, quindi deve essere un processo in cui il nucleo dell'idrogeno, che è il protone, uno degli elementi più semplici che esistono, penetra nel nucleo del nickel e lo trasforma in rame. Ecco, ma è vero che però la fusione del nickel con l'idrogeno, in base alle conoscenze attuali perlomeno, sarebbe ancora più improbabile del fenomeno che appunto avevano reclamato a suo tempo di aver scoperto Fleischmann e Pons nell'89, quindi la fusione fra questi atomi di deuterio? Sì, certo, questo è vero, però sta di fatto che le cose vanno in questo modo, perché alla fine dei nostri esperimenti noi troviamo fra il materiale residuo il rame, e il rame è proprio l'elemento che si forma se uno aggiunge al nucleo del nickel un protone. Quindi diciamo, abbiamo anche l'indicazione sperimentale che la nostra interpretazione è quella giusta. Cioè, insomma, lei dice, non siamo in grado di spiegare come ce la faccia questo protone entrare nel nucleo di nickel, però è un dato di fatto, perché poi troviamo il rame e l'unica spiegazione è che il protone sia entrato nel nucleo di nickel. Esatto. Questo dice. E otteniamo le energie che sono ragionevoli per una spiegazione di questo tipo. Quindi c'è sono due gli effetti sperimentali che ci danno questa indicazione. Invece, ecco, appunto, una spiegazione di come ce la faccia questo protone entrare nel nucleo in questo momento non c'è. Noi non l'abbiamo, ovviamente. Benissimo. E non è così banale da spiegare. Ecco, molti di quelli che sono scettici sostengono che da questa reazione dovrebbero venire fuori dei raggi gamma ad alta energia. Non entriamo nel dettaglio, ma di fatto questi raggi gamma non ci sono. Lei come lo spiega? Dunque, guardi, la debole emissione di raggi gamma esiste, che però noi schermiamo nel nostro apparato sperimentale con del piombo. Ma in realtà ci sono dei dati vecchi nella bibliografia scientifica sui processi che avvengono. I gamma che i bassa energia che noi vediamo, secondo me, sono di origine diversa e nascono in questo modo. Quando il protone entra nel nucleo del nickel si forma automaticamente il rame. Sì. E si forma il rame in uno stato eccitato, perché c'è più energia di quella che ha il rame normalmente. Mm-hmm. Allora il sistema è in uno stato nucleare eccitato, dal quale decade verso la quiete con emissione di raggi gamma, più di uno di raggi gamma. L'emissione dei raggi gamma provoca un fenomeno per cui se il gamma va in una direzione, il nucleo va in quella opposta. Una specie di rinculo, come quando si spara un proiettile. Esattamente, mi ha anticipato. Il proiettile va da una parte e l'arma torna indietro. E questi sono gamma di non elevata energia e vanno eliminati con il piombo, naturalmente. Ecco, provo a interpretare, o come dire, a ripetere in altre parole. Lei sta dicendo che quel modello che hanno in mente quei fisici che dicono che dovremmo aspettarci questi due raggi gamma molto intensi non è l'unico modello che in letteratura scientifica oggi esiste per spiegare che cosa accade dopo questa benedetta fusione tra nickel e idrogeno. Potrebbero esserci altri meccanismi che corrispondono esattamente alle vostre osservazioni. Sì. È corretto? Sì, giustissimo. Va bene. Va bene. Buonasera, Focardi. Buonasera, arrivederci. Ecco, prima di chiudere, un appunto: una radio non è certo il luogo giusto per dirimere una controversia scientifica, non è quello che stiamo cercando di fare, stiamo invece cercando di raccontarvi una vicenda molto affascinante che, se si rivelasse infine vera, insomma, avrebbe evidentemente ripercussioni molto significative. Questo per stasera è tutto. Domani restiamo sulla fusione fredda, vi parleremo degli studi che sono stati svolti negli anni su questo tema all'Enea. Buona serata.